Nella settimana dal 24 dicembre al 3 gennaio, 5 attacchi esplosivi hanno colpito la sede di femministe e lesbiche di Via dei Volsci 22. Attacchi intimidatori di matrice patriarcale, lesbofobica e fascista che colpiscono un luogo di femministe e lesbiche. Venerdì 13 gennaio, in Via dei Volsci 22, una serata di finanziamento dei lavori. Dalle 20, cena esplosiva vegetariana e vegana. La porta scoppia, ci scappa la riffa. Dalle 22, estrazioni di scoppiettanti premi femministi. La porta scoppia, 22 resiste. Venerdì 13 gennaio, in Via dei Volsci 22.